sabato 31 maggio, con un ricco programma che vede la tradizionale Santa Messa celebrata nel mausoleo e una conferenza scientifica di alto livello, dove affrontiamo la comunicazione wireless sul mare con una collaborazione stretta e significativa con Marina Militare via terra e anche nello spazio. Con noi ci saranno ospiti illustri come l'ammiraglio Aurelio De Carolis, il capo della nostra flotta, l'ingegner Pietro Piccinetti di Infratel, che stanno coprendo tutte le aree non servite dalle telecom per il 5G, e il professore Eugenio Coccia, che è tra coloro che hanno scoperto i buchi neri e ora presidente della Commissione Grandi Rischi. Ma avremo anche un collegamento da Houston con il nostro astronauta Walter Villadei, che ci racconterà appunto come nello spazio ci si è andati e ci si va anche grazie all'elettromagnetismo e alle comunicazioni radio che discendono dall'avventura marconiana. Ma la Fondazione Guglielmo Marconi propone una serie di iniziative nel pomeriggio del 31 maggio per tutti, per le famiglie, per il pubblico generico, visite guidate, apriamo 3 nuove sale nel percorso espositivo, 2 mostre e poi la rievocazione storica di quel primo segnale wireless e di quel colpo di fucile che cambiò la storia, una caccia al tesoro, quiz e tante attività nel parco. Questo ricco programma abbraccia tutto l'anno e segnalo anche il 30 maggio l'opera lirica Madama Butterfly nel parco di Villa Griffone, con una riduzione come opera comique, con costumi di scena, una soprano di livello internazionale e la collaborazione con appunto la grande opera in villa di Alberto Uva, per suggellare quell'amicizia storica tra Guglielmo Marconi e Giacomo Puccini, fino ad arrivare a un convegno su cui ci portano le onde dedicato all'agricoltura, perché si parla di comunicazione, si parla di spazio, si parla di pace, ma tutti noi, la nostra vita quotidiana dipende da ciò che mangiamo, e quindi come le nuove tecnologie, come la comunicazione wireless e digitale impatti sull'agricoltura, il trattamento dei big data e la normativa europea. Per chiudere questa prima parte dell'anno, il 29 giugno, con uno spettacolo realizzato dall'Università di Bologna, grazie Marconi, dalle telecomunicazioni alla telemedicina, e spettacolo musicale dal vivo, l'apertura della villa, visite guidate e una grande festa. Per ogni dettaglio vi invito a visitare il sito fondazioneguglielmomarconi.it e marconi150.it.